Bombolo, tu sei. Ciao Antonio, vabbè, come stai? Dopo tanto. Non c'è nessuno oggi, no? Ho attaccato, ciao. Ciao Giulio. Ho attaccato oggi, adesso l'antenna, perché avevo paura a fulmini temporanei, invece poi non ha fatto nulla. Come vedi? Già lo so. Sai cos'è? D'estate l'onfio, quando comincia a nuvolarsi il cielo così può scoccare, cioè io una volta pure il fulmine, ho paura che possa scoccare così da un momento all'altro anche senza preavviso, sai, l'antenna sul tetto, mamma mia, non mi ci fare pensare. Giulio, sei anche qua? Scusa Bombolo, dai, che ero da un'altra parte, va, vedo che non c'è mordente oggi, forse tutti hanno staccato l'antenna per via del tempo, ma credo peggio, sempre minaccia di piove, ieri l'altro, poi non fa niente, va bene, non so se sia un bene o male che non piova su Sassari, ma non c'è più Bombolo, so che fa vedendo alla giora. Come?